Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio, ben ritrovati a tutti. Allora, un bel tema oggi che mediamente attira sempre in misura consistente la vostra attenzione e il vostro gradimento. Parliamo di lavori in casa, lavori di manutenzione, di ristrutturazione. Quanti permessi bisogna chiedere? A chi e per quali lavori? Perché parliamo di questo? Perché in molti di voi lo ricorderanno, con la manovra d'estate che è entrata in vigore a fine luglio è stata introdotta una nuova procedura semplificata per consentire un avvio rapido dei lavori edili, la SCIA, cioè la segnalazione certificata di inizio attività. La SCIA va a sostituire la DIA, la denuncia di inizio attività, che fino a questa estate costituiva il presupposto per eseguire qualsiasi lavoro per il quale non fosse richiesto il permesso di costruire, come per esempio la ristrutturazione di un appartamento. Ai tempi della DIA bisognava inviare al comune la DIA stessa e poi aspettare 30 giorni prima di iniziare i lavori. Adesso con la SCIA, appena consegnati i documenti al comune, purché corredati di tutti gli elaborati richiesti, si può partire. Ecco, tutto così semplice, tutto così chiaro, tutto così lineare, mica tanto. E allora, siccome sono nate in questo frangente molte perplessità anche a livello locale, perché come sapete la materia edilizia non è disciplinata solo dalla legislazione nazionale, ma ci sono poi tutti i rivoli legislativi, regionali, provinciali e comunali, allora oggi abbiamo necessariamente dovuto chiamare due esperti in materia per verificare bene che cosa è cambiato, come bisogna comportarsi se si devono fare dei lavori in casa e quali casi pratici e concreti appunto possano aiutarci a capire quando è necessaria, quando basta appunto fare la SCIA per i lavori nell'ambito della nostra abitazione. Stamattina con noi il nostro Cristiano Dell'Oste del Sole 24 Ore. Cristiano, ciao. Stamattina curiosamente al telefono. Cristiano, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ciao, grazie. E do il benvenuto all'ingegner Giovanni Gasparrini, presidente del Centro Studi Tecnico Urbanistici di Confabitare. Buongiorno. Buongiorno a voi. Ingegnere, grazie per essere con noi. Allora, naturalmente, microfoni aperti alle vostre domande, 800 24 00 24, per intervenire in diretta. Se invece ci volete scrivere, il numero è il 349 238 6666. La borsa, prima di entrare nel dettaglio del tema di questa mattina, la borsa l'avete sentita anche nel corso del giornale radio, leggermente negativi gli indici, leggermente non tutti, perché Parigi sta perdendo lo 0,7%, molto meno perdono le altre piazze del vecchio continente: Francoforte meno 0,21, Londra meno 0,08, Milano meno 0,15. Che succede stamattina? Che Moody's ha ridotto il rating della Spagna, che ha perso così la tripla A, però era una notizia attesa e più di tanto sul mercato questa notizia non si fa sentire. La stessa Spagna, che aveva aperto il listino spagnolo, l'Ibex 35, che aveva aperto con un ribasso di circa lo 0,8-0,9%, adesso è addirittura positivo per lo 0,02%. Poi ci sono queste nuove preoccupazioni per le banche irlandesi, per salvare Anglo-Irish Bank. L'Irlanda pagherà qualcosa come 34 miliardi di euro e quindi questa conferma arriverà in giornata. Questa notizia sta pesando molto sui titoli bancari di tutta Europa, anche perché c'è un'altra banca irlandese in crisi, che è la Allied Irish Bank, e secondo quanto annunciato questa mattina necessiterebbe di altri 3 miliardi di nuovi capitali oltre ai 7,4 già annunciati in precedenza. Questa notizia stamattina sta facendo tracollare il titolo in borsa a Londra di oltre il 20%. Banche sotto i riflettori anche a Piazza Affari, rimbalza dopo la scivolata degli ultimi giorni la Popolare di Milano, più 0,8%, Unicredit, che oggi ci farà conoscere il nome presumibilmente del suo nuovo amministratore delegato, più 0,7%, il Banco Popolare invece continua a perdere, oggi meno un punto per questa prospettiva di un aumento di capitale e il taglio del rating da parte di Moody's, Intesa San Paolo meno un punto, il peggior titolo di Piazza Affari è però Telecom, che perde 1,5 punti. Tra gli altri titoli in rialzo invece segnaliamo Fiat più 1,64%, l'automatica più 1,55%. Bello forte stamattina l'euro sul dollaro a 1,36,58, valute sempre sotto i riflettori. Ricordiamo che in nottata il Congresso americano ha approvato il progetto di legge che prevede misure di ritorsione contro la Cina e la sua moneta, lo yuan, che la Cina si ostina a non rivalutare. Tra l'altro, noi di scenario di mercato parleremo domani a Salva Danaio, come facciamo spesso il venerdì. Adesso lasciamo la borsa, andiamo andiamo al tema di oggi, parliamo di lavori in casa, di manutenzione e ristrutturazione, quando la scia prende il posto della dia per iniziare queste attività. Un lavoro di ristrutturazione edilizia è causa notoriamente di non pochi grattacapi. Oltre alle spese da sostenere, infatti, è fondamentale sapersi destreggiare tra le sigle di autorizzazioni e documenti, evitando il più possibile complicazioni e perdite di tempo. Finora si è fatto riferimento alla DIA, la denuncia di inizio attività edilizia, che permette la manutenzione ordinaria o straordinaria di un immobile, richiedendo un tempo di attesa di 30 giorni dalla consegna per avviare i lavori. Da quest'estate, l'obiettivo di rendere le cose più semplici, è stata introdotta anche la scia. Grazie a questo strumento, i lavori possono cominciare subito dopo aver consegnato al comune la documentazione. La segnalazione certificata di inizio attività è una delle tante novità introdotte dalla manovra finanziaria estiva. Si applica alle opere di ristrutturazione edilizia definite leggere o fedeli, come restauro e risanamento conservativo, mentre le opere più rilevanti o infedeli, come l'aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, delle superfici, restano soggette alla DIA. Tempi più brevi e passaggi più semplici, quindi, per partire con i lavori in casa, anche se resta sempre importante informarsi sui documenti da presentare. Attestazioni di tecnici abilitati, dichiarazioni di conformità, elaborati tecnici necessari per consentire eventuali verifiche. All'amministrazione, infatti, resta naturalmente la possibilità di effettuare controlli e di interrompere l'opera entro 60 giorni dal suo avvio. 800 24 0024 il numero verde per le vostre telefonate, oppure 349 238 6666 il numero per i vostri messaggi. Allora, Cristiano Dell'Oste, comincio subito con te perché da luglio stai seguendo l'evoluzione di questa novità. E allora, lo abbiamo ricordato, una nuova norma, questa che ha introdotto la scia, la segnalazione certificata di inizio attività, che ha suscitato qualche perplessità soprattutto a livello locale, perché sostituiva la DIA, però senza toccare il testo unico per l'edilizia. In sostanza è un impianto di norme talmente complicato, quello che riguarda appunto proprio l'edilizia, riguarda per esempio il tema della ristrutturazione della casa, che effettivamente è molto difficile non scontrarsi in continuazione. E tutti i dubbi che la scia ha suscitato sono stati in qualche maniera fugati, Cristiano? Beh, diciamo che i dubbi sono stati veramente tanti, tant'è vero che non più di una decina di giorni fa ha dovuto intervenire il Ministero della Semplificazione, in sostanza i tecnici che la norma l'avevano scritta, con una nota che chiariva innanzitutto che la scia si applicava anche all'edilizia. Questo per farti capire quanto grandi fossero le incertezze. La norma sulla scia era nata per chi voleva aprire un'impresa, per chi voleva avviare un'attività commerciale, e all'inizio si dubitava persino della sua possibilità di applicarla all'edilizia. Stessa cosa hanno fatto anche molti comuni hanno espresso indirizzi, indicazioni in materia. Questione chiusa, io non direi, nel senso che per capire quale sarà effettivamente la portata della nuova semplificazione bisognerà attendere l'orientamento degli enti locali. Le inchieste che hanno fatto anche i colleghi di Edilizia e Territorio dimostrano che nei primi giorni, nelle prime settimane di applicazione della norma, ci sono stati comuni che hanno continuato a pretendere la DIA, quindi a rimanere, diciamo, sul sicuro. Altri che invece hanno detto no, basta, la DIA non serve più, portateci soltanto la scia. Altri ancora che in una fase di incertezza hanno continuato a richiedere entrambi i documenti, ad accettare entrambi i documenti, lasciando quindi in qualche modo al cittadino e al suo geometra, al suo architetto, la scelta di quale iter seguire. Peraltro c'è una cosa da dire, che poi la differenza veramente rilevante è soprattutto nella possibilità di partire subito con i lavori, non tanto nella documentazione che deve essere presentata, che rimane sostanzialmente simile sia per la DIA che per la scia. Quindi scusami Cristiano, non stavo seguendoti. Il tema è a questo punto perché praticamente presentando la DIA i lavori possono partire solo una volta che il comune praticamente ti dà l'ok, dopo 30 giorni. Deve dare un ok esplicito, diciamo che c'è un meccanismo di attesa di 30 giorni, poi è chiaro che c'è una sorta di silenzio assenso. Esatto. vale però il principio del silenzio assenso. Nel caso della scia invece io presento e parto. E parto. Questa è la differenza. È la differenza, anche se poi appunto, come abbiamo detto anche nella nostra scheda, l'amministrazione alla quale ci si rivolge con la presentazione di questa segnalazione ha 60 giorni di tempo per adottare provvedimenti di divieto o rimozione e quindi attraverso controlli successivi dire sì, no. Ed ecco perché allora alcuni interpreti hanno detto, beh, attenzione, perché se io posso avviare subito i lavori, ma l'amministrazione ha 60 giorni per fare i controlli, se io ho qualche incertezza sulla natura del progetto, sulle cose che effettivamente posso fare, va a finire che anziché aspettare 30 giorni ne aspetterò 60. Infatti. Ingegnere, sì. Ti faccio, no, scusami, è concluso Cristiano. Stamattina, tra l'altro, ho problemi con la cuffia o col telefono, non capisco. Allora, ingegner Gasparrini, vengo da lei a Confabitare. Confabitare è un'associazione che ha sede a Bologna, è un'associazione di proprietari immobiliari. Quali sono i dubbi che vi stanno arrivando e ai quali stanno rispondendo a proposito di questa novità di cui stiamo parlando questa mattina? Come si stanno comportando anche i proprietari immobiliari che devono fare dei lavori di manutenzione, di ristrutturazione, lavori appunto di riqualificazione dei propri ambienti domestici? In sostanza, quanti stanno utilizzando questa nuova opportunità che è stata data appunto dalla manovra d'estate, entrata in vigore il 31 luglio? Nella nostra regione credo nessuno ancora, anche perché sono stato dei convegni, sono stato delle riunioni anche con la regione, è un caos normativo immenso, nel senso che prima di tutto è saltata fuori questa cosa in pieno agosto, quindi si può immaginare che attività facciamo un po' tutti noi in pieno agosto. Giustamente. E poi il discorso è che, come diceva prima l'interlocutore, questa cosa è stata fatta, addirittura si aveva il dubbio che potesse non essere applicata nell'edilizia. Dubbio lecito, perché nell'edilizia esiste il cosiddetto regime concorrente, quindi in linea di massima il governo detta delle linee e poi la regione deve legiferare sul concreto. In questo caso specifico le regioni non sono proprio state neanche convocate, da quello che mi risulta. Quindi è stato fatto tutto al di sopra delle regioni e a questo punto, essendoci questo regime concorrente, c'è sì una legislazione statale, ma ci deve essere una legislazione regionale di dettaglio, per cui ogni regione legifera in merito. In particolare la regione Emilia-Romagna aveva legiferato su tutti altri temi e quindi in buona sostanza la legge regionale in buona parte sarebbe da riscrivere. Certo. Fatto allora... salvo il discorso che, essendo state completamente emarginate le regioni, molte si stanno riservando di fare ricorso alla Corte Costituzionale. E chissà quando potremo partire per fare i lavori nella nostra casa, pensando di farli in maniera abbastanza rapida in virtù di questa segnalazione certificata di iniziatività. Allora, perché abbiamo raccontato un po' anche tutto il presupposto rispetto al tema di questa mattina? Proprio per far capire a tutti gli ascoltatori che magari hanno letto sui giornali che adesso c'è la possibilità di fare in tempi molto rapidi i lavori della propria casa. Attenzione, prima di partire, per non saperne leggere scrivere, documentatevi bene, perché magari in realtà non è così semplice quello che dovete fare e necessita comunque di tutta una serie di permessi e necessita appunto di un rapporto preciso, soprattutto con l'amministrazione comunale all'interno della quale ricade evidentemente l'immobile nel quale abitate. Per cui pazienza, ancora non è detto che si possa fare tutto così rapidamente in virtù dell'introduzione di questa scia. 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi. Sono pronti Stefano da Bologna, visto che abbiamo l'Emilia Romagna. L'ingegnere Gasparrini potrà rispondere in maniera anche più semplice, poi Angelo da Roma, a tra pochissimo. Oggi a Salvadanaio ritorniamo a parlare di casa e di questa prospettiva che si è aperta con la manovra d'estate dello scorso 31 luglio relativamente alla possibilità di effettuare lavori di manutenzione e ristrutturazione in maniera più semplice rispetto al passato, grazie all'introduzione della SCIA, la segnalazione certificata di inizio attività, per la quale però si è reso necessario, come ci spiegavano molto bene i nostri ospiti in apertura, un chiarimento da parte del Ministero della Semplificazione, che ha dovuto dire: attenzione, questa SCIA non è è possibile applicarla anche al settore dell'edilizia, perché addirittura non era scontato fin dall'inizio. E allora, detto questo, oggi che cosa cambia per chi fa lavori in casa, per chi naturalmente ha acquistato una casa nuova e deve ristrutturarla integralmente o parzialmente, insomma, in che maniera deve rapportarsi con il comune, che comunicazioni deve fare al posto della DIA, può cominciare subito a fare questi lavori grazie a questa nuova segnalazione? Non è tutto così semplice, bisogna anche chiarire bene in che tipo di regione si abita e che tipo di legislazione ha questa regione su questa materia. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. Adesso sentiamo un po' che lavori dovete fare e che tipo di procedura dovete adottare. Allora andiamo in Emilia Romagna, perché abbiamo l'esperto peraltro di questa regione, che è l'ingegner Gasparini di Confabitare. Sentiamo Stefano, buongiorno. Buongiorno Deborah. Buongiorno a lei. È una cosa che magari può capitare spesso. Io ho acquistato un appartamento adiacente al mio e sono proprio nella fase in cui devo buttare giù qualche muro. Ma poco. Però volevo chiedere, visto che sorgono sempre paletti su queste mille regole, adesso c'è anche la scia, l'ho imparata oggi regolarmente, mi chiedevo, sarebbe mio interesse mantenere, non so se è corretto il termine, l'indipendenza catastale delle due unità immobiliari, perché vorrei comunque mantenerle catastalmente separate. Perché sono due interni adiacenti, però preferirei far così. Quindi insomma le vuole rendere comunicanti in qualche maniera, senza però variare la rendita, esatto, catastale. Esatto. È possibile questo? Sentiamo un po'. Allora, ingegner Gasparini, mi viene da dire Giovannini perché si chiama Giovanni, abbia pazienza, quest'anno me la porterò dietro fino alla fine della puntata, esatto. Allora, intanto magari un chiarimento al nostro ascoltatore per fare il tipo di lavoro che deve fare, quindi rendere comunicanti due appartamenti, anche se ho capito che non dovrà ribaltare completamente la struttura interna delle due case, DIA o SCIA? Dunque, la domanda poi era diversa, sì, se ho capito bene. Però siccome noi parliamo oggi di DIA e SCIA, gliela faccio io, perché sennò andiamo fuori dal nostro seminato. Allora, DIA o SCIA, dipende, poi sostanzialmente non è che ci sia questa rivoluzione come hanno tanto decantato, perché poi tra DIA e SCIA la cosa fondamentale è che invece che iniziare non prima di 30 giorni, che è quello che ci diceva prima dell'host, il giorno, esatto, prima, sì, come hanno detto tutti i relatori di prima, anche perché voglio dire, tutta la documentazione da recepire rimane sempre la stessa. Faccio un esempio: se c'è un problema di sismica per cui si va attorno a una struttura portante, la pratica sismica è sempre quella da preparare, come si preparava prima per la SCIA, si prepara dopo come prima si preparava per la DIA, si prepara dopo per la SCIA, e prima che non sia, finché non è pronta questa pratica non si riesce a depositare nulla in comune. Quindi sostanzialmente questa rivoluzione che è stata tanto strombazzata non è una rivoluzione. Infatti, insomma, invece che 30 giorni zero, ecco, la differenza sostanziale. Però insomma bisogna andare in comune anche il giorno in cui si presenta la SCIA, tutte le attestazioni, le asseverazioni dei tecnici, sì, abilitati devono esserci tutte quante. La cosa differente, sì, è che non dobbiamo aspettare questi 30 giorni per questa sorta di ok con un silenzio assenso, ma si può iniziare evidentemente il giorno dopo. Detto questo, il nostro ascoltatore, secondo lei che cosa gli conviene fare per non variare l'indipendenza? Non può fare così, perché ci deve essere conformità fra gli atti catastali e quelli che vengono presentati in comune. Quindi non può fare una cosa diversa tra catasto e comune. Alla fine di tutto bisogna certificare che le operazioni catastali coincidano perfettamente con gli interventi che sono stati fatti in comune. Quindi o fa l'intervento di aprire quella famosa porta e rendere comunicanti due appartamenti, sia in comune con una DIA o con una SCIA, non si sa bene ancora, perché i comuni stanno aspettando istruzioni. Ma la procedura è molto analoga, e alla fine di tutta la procedura lui deve mettere a posto anche il catasto. Cristiano, volevi intervenire su questo caso? Ti ha suscitato qualche curiosità? Ma guarda, possiamo forse approfittarne per fare una precisazione, un chiarimento, allargare un attimo il discorso. Tu prima dicevi è da luglio che ci si occupa di SCIA, questo è vero, però di semplificazione edilizia in realtà abbiamo iniziato a occuparci già in primavera, perché c'è stata anche un'altra cosa che è stata fatta con il decreto legge 40/2010, che in qualche modo, insomma, dalle indicazioni che noi ricaviamo anche dal territorio e dagli enti locali, forse sotto senza tanto strombazzare di cronache e di titoli, sta un pochino muovendo di più le cose, ed è la possibilità di avviare certe manutenzioni straordinarie, diciamo leggere, poi spieghiamo cosa sono, senza dover presentare nella DIA e nella SCIA, ma in regime di attività edilizia libera e utilizzando una semplice comunicazione alla quale deve essere allegato il progetto. Queste manutenzioni straordinarie leggere devono essere quelle, per intenderci, che non toccano le parti strutturali, mm-hmm. non creano nuovi appartamenti e non vanno a modificare i volumi o le superfici. E di conseguenza sono... anche la rendita catastale della casa. Tra l'altro, Cristiano, guarda, ti interrompo solo perché prendiamo il caso di Anna Maria da Roma, che mi sembra abbastanza significativo proprio per dare una descrizione ancora più precisa del tema della manutenzione leggera, come tu l'hai definita poco fa. Anna Maria, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io praticamente sto cambiando il parato a casa, perché era ora, dopo 10 anni, sì. Ristrutturando, diciamo così, il bagno, mattonelle nuove, sostituzione dei sanitari e la cucina con le mattonelle e basta, non è che uh-huh. faccio lavori. Più ho cambio le finestre, metto quelle doppie, quelle... Vabbò. Sì, sostituzione infissi. Io non ho dato niente a nessuno, ho sbagliato? Allora, Cristiano, penso che Anna Maria, anche se il dubbio gli viene adesso e forse era meglio che se lo facesse venire prima di cominciare, credo che comunque non dovesse chiedere permessi a nessuno per i lavori che ci ha indicato. Beh, bisogna, diciamo che una verifica in comune sarebbe stata sarebbe in ogni caso importante, perché c'è, spieghiamo un attimo il discorso delle norme regionali che ci aiutano a inquadrare la cosa. Giustamente l'ingegnere prima diceva in Emilia Romagna non si è fatto niente con la SCIA perché l'Emilia Romagna ha una propria legge. Il punto è che la norma che introduce la SCIA dice: noi sulle, diciamo, questa nuova procedura prevale sulle leggi regionali difformi. Le regioni non sono d'accordo e bisognerà vedere chi avrà ragione. Come finirà? La norma invece che introduce la comunicazione per le manutenzioni straordinarie e leggere fa salve le leggi regionali difformi, quindi non vale in tutta Italia. Vale soltanto in quelle regioni che non avessero già dettato delle regole proprie, e queste regioni includono anche il Lazio. Le altre, se vuoi possiamo dirle così, diamo un chiarimento, sono l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, le Marche, il Molise, il Piemonte, la Puglia e il Veneto. In tutti questi casi la semplificazione, diciamo, delle opere di manutenzione straordinaria è immediata in qualche modo. Poi nel caso specifico la signora sta rifacendo il bagno, adesso poi mi correggerà l'ingegnere, ma il rifacimento del bagno è una di quelle classiche operazioni che i comuni inquadrano in modi diversi, nel senso che è vero che si va a toccare gli impianti e quindi sarebbe una manutenzione straordinaria, ma spesso e volentieri i comuni la qualificano come ordinaria sì. E non richiedono alcuna di permesso. Per questo la sostituzione dell'infisso invece, Cristiano, come la definiamo? Scusami? La sostituzione dell'infisso. Allora, l'infisso dipende, se è dello stesso tipo e dello stesso colore rientra in una manutenzione di carattere ordinario. Se invece andiamo a cambiare la tipologia, cambiamo le caratteristiche, allora siamo nello straordinario. In ogni caso, trattandosi di opere che non hanno un impatto molto, molto rilevante, sarebbero tutte opere che la signora dovrebbe poter fare presentando in comune la comunicazione di inizio lavori, quindi non la DIA vera e propria, ma la comunicazione con una semplice relazione di un tecnico allegata. Diciamo che se vuole stare tranquilla, il consiglio che le possiamo dare è di fare lei stessa, se la sente, una verifica presso gli uffici comunali, oppure di incaricare un geometra. Si tratta in ogni caso di una pratica che non richiede no. cifre molto rilevanti. Tra l'altro, per la sostituzione dell'infisso magari avrebbe dovuto anche aprire la pratica per chiedere gli incentivi fiscali del 55%, Cristiano, e quindi forse lì magari qualche professionista avrebbe dovuto allertarla sul fatto di fare tutte le pratiche correttamente, a meno che lei non li voglia. Ecco, certo, diciamo questo, che se gli infissi che la signora va a installare hanno i requisiti corretti per rientrare nel 55%, e questo glielo dovrebbe poter dire l'impresa che glieli vende, che glieli installa, ecco, se questi requisiti ci sono, la signora è ancora in tempo a fare la pratica per il 55%, perché va fatta entro 90 giorni dalla fine dei lavori. L'importante è che lei paghi gli infissi entro fine anno, perché altrimenti siamo fuori tempo massimo. Esattamente, perché questi incentivi scadono quest'anno e non è detto che vengano rinnovati ci sembra abbastanza improbabile, almeno dalle voci di corridoio di cui Cristiano è in possesso in maniera più chiara di me. 800 24 00 24, numero verde ancora per le vostre domande. Adesso torno all'ingegner Gasparrini, non volevo essere meno educata. Cristiano Dell'Osse tra un po' ci deve lasciare, per cui ho dato solo per questo motivo un po' più spazio a lui. Adesso suggerimenti per chi è in viaggio, a tra poco. Allora, ingegner Giovanni Gasparrini di Confabitare, chiedo anche a lei una consulenza sul caso dell'ascoltatrice di Roma che sta rifacendo il bagno. Lei dice, insomma, io cambio mattonelle e qualche tubatura, per la cucina cambio solo le mattonelle e sto facendo il lavoro anche di sostituzione degli infissi. E mi è venuto il dubbio, non avendo fatto un bel niente, che dovessi allertare il comune su questi lavori con la DIA o con la SCIA. Secondo me ha ragione il relatore che Cristiano Dell'Osse, sì. Ecco, nel senso che né l'una né l'altra, dall'impressione, è sempre prudente, fatto salvo, perché ogni comune già, se si va a un comune a 10 km di distanza le norme possono essere diverse, quindi il punto di partenza condivido, bisogna andare a sentire dal comune perché ogni comune ha il suo regolamento specifico. In linea di massima una sostituzione di piastrelle di sanitari non bisogna proprio chiedere niente a nessuno perché è una semplice manutenzione ordinaria. Leggera, come l'abbiamo definita, esatto. Ancora meno di quella che dicevano prima, cioè togliere le piastrelle, sostituire i sanitari è proprio una manutenzione ordinaria, quindi non bisogna solitamente chiedere niente a nessuno. Questo però fatto salvo la regola specifica, lo ripetiamo. Però voglio dire, adesso, a meno che ovviamente il lavoro non ce lo faccia il vicino di casa che fa il pensionato e che a cui vogliamo farlo fare di nascosto, situazione che io sconsiglio vivamente sempre perché può sempre capitare qualche problema e anche per altre ragioni. In cui qualcuno si fa male, i problemi diventano primo, grandi. E poi perché l'evasione fiscale non ci piace, secondo. Ecco, e detto questo, insomma, magari il professionista al quale la nostra ascoltatrice si è rivolta, credo che qualche indicazione in merito gliela possa anche dare. Allora, sentirei invece il lavoro un po' più... Cristiano, so che devi salutarci. Sì, infatti. Benissimo, ci risentiamo prossimamente perché tanto lo sai che sei uno dei nostri ospiti preferiti su questo argomento. Buon lavoro, ciao, presto. Grazie. Io chiudo con gli ultimi 6-7 minuti che ci rimangono con l'ingegner Gasparrini, sentendo adesso un altro paio di casi. Andrea D'Angelo da Roma, che sto facendo aspettare da un bel po'. Angelo, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. La mia domanda riguardava specialmente un regolamento locale, perché io dovrei aprire una finestra su un tetto, non ci sono vincoli urbanistici e allora mi domandavo se questa fosse da considerarsi una manutenzione leggera oppure richiedesse obbligatoriamente l'intervento di un tecnico, quindi un geometra, per l'eventuale progetto. Peraltro, certo, il regolamento comunale indica questa come un'attività ordinaria, non richiedente alcuna certificazione, salvo poi in comune andare a chiedere, questi indicano come opportuno avere un titolo abilitativo e quindi obbligarsi ad andare da un geometra con quanto riguarda la DIA, la SCIA o quant'altro e conseguentemente con le relative spese. Angelo, aspetti un po' lì. Allora, ingegner Gasparrini, questo ascoltatore deve aprire una finestra sul tetto, probabilmente non so se per esempio cambia la cosiddetta trasmittanza energetica dell'abitazione e insomma è una questione che viene disciplinata secondo lei in maniera radicalmente diversa a seconda del paese in cui si abita, della regione in cui si abita, oppure ci sono delle regole generali per poter far aprire questa finestra ad Angelo? Ma il discorso che facevano prima sulla semplificata, la semplificata è semplificata per essenzialmente per opere interne. Allora, ci sono tre livelli, c'è l'esempio della piastrella, togliamo le piastrelle e cambiamo le piastrelle, quella è una manutenzione ordinaria e solitamente non bisogna chiedere niente a nessuno. Ci sono delle operazioni all'interno dell'abitazione che sono chiamate, come si diceva prima, leggere. Può essere lo spostamento di un muro, lo spostamento di una porta, che so io, di mezzo metro. Sono operazioni interne e si fanno con quella, noi la chiamiamo CIA, comunicazione d'inizio attività, che è quella che veramente snellisce, ma sono poche quelle operazioni e sono all'interno della casa e in ogni caso ci vuole l'asseverazione di un tecnico e perché il tecnico deve, faccio un esempio stupido, se apre una porta, fra un bagno e una cucina, anche se è una porta semplice, non posso farlo per motivi igienico-sanitari. Esattamente, c'è tutta la questione dell'antibagno che conosciamo. Perfetto. Allora ci deve essere un tecnico che dice no, quella porta lì non la puoi aprire, l'apri verso il disimpegno, che è la stessa cosa. Allora, in ogni caso ci vuole un'asseverazione di un tecnico che dica, anche se l'intervento, permettetemi lo scherzo, è stupido, tu lo puoi fare perché è in ogni caso a norma delle norme sanitarie. L'ascoltatore invece che cita un intervento esterno, tra virgolette, è un intervento che una volta era soggetto alla DIA perché in ogni caso lui cambia un aspetto esterno del fabbricato, anche se lui dice non ci sono vincoli, perché se ci fosse un vincolo della soprintendenza sarebbe anche peggio. In ogni caso lui cambia un aspetto estetico esterno del fabbricato, quindi come prima bisognava passare attraverso una DIA, adesso bisogna passare attraverso una SCIA. Benissimo, speriamo di aver chiarito le idee al nostro ascoltatore. Tino da Milano, è un caso simile a quello che abbiamo appena sentito, lui addirittura, Tino, deve rifare integralmente il tetto della sua abitazione? Sì, buongiorno Deborah, io praticamente devo togliere la copertura di amianto che ho sotto e sopra ho dei coppi, no? Però la struttura di legno è ancora buona, quindi volevo sapere se devo chiamare un geometra oppure, non so, un lavoro che posso fare con un piccolo imprenditore edile, magari con un piccolo muratore. Esatto. Ecco, esatto. Perché van tolto gli eterni così e mettere sotto i pannelli quelli coimentati e sopra le tegole portoghesi. E soprattutto, con che tipo di comunicazione si deve presentare al comune? Perché anche questa mi sembra una questione non irrilevante. Ingegner Gasparrini, insomma, per il lavoro che Tino deve fare. Allora, il problema più delicato è l'asportazione dell'amianto, perché per quello ci vuole una ditta certificata, ci vuole una cosa che starei mezz'ora a spiegare che cosa ci vuole. È già stato chiaro, insomma, diciamo che già la parola stessa induce ad avere una certa attenzione sul trattamento di questo materiale. Esattamente, che esula però dal nostro discorso, diciamo, urbanistico. Se lui non modifica, come mi sembra di capire, l'aspetto estetico, perché coppi prima e coppi dopo c'erano sul coperto, non innalza il coperto, non lo abbassa, non modifica la sagoma del coperto, qui ci si perde come al solito nei meandri dei regolamenti comunali. Per esempio nel comune che io personalmente conosco di più, che è il comune di Bologna, questa potrebbe essere anche una semplice manutenzione ordinaria, per cui potrebbe non richiedere nessun titolo, addirittura si fa e basta, è un po' come rifare l'intonaco di una facciata. Certo, però insomma, non bisogna chiedere niente a nessuno, in buona sostanza, se non si cambia, ovviamente se il colore prima è rosso lo faccio blu, c'è qualcosa che non funziona. Ingegner Gasparrini, per concludere, perché la trasmissione ormai è terminata, io adesso vorrei solamente dare un'ultima raccomandazione ai nostri ascoltatori, che si chiami DIA, che si chiami SCIA, io direi che quando si tratta di fare in casa un lavoro un po' più complicato della sostituzione di una piastrella o della scelta del colore della piastrella da mettere in bagno piuttosto che in cucina, una telefonata in comune, ci sono uffici preposti a questo lavoro in tutti i comuni, facciamo una chiacchierata con un professionista, perché comunque ci salvaguarda da tanti problemi anche futuri, perché si possono presentare per esempio un momento in cui io la casa la voglio vendere. Quindi, adesso i notai sono molto rigorosi. Esattamente, quindi un suggerimento di 10 secondi prima di salutarci, l'ultimo che si sente di dare? Sì, sentire da un tecnico del comune per non incappare in cose più grandi, non essere troppo faciloni, perché purtroppo gli abusi sono dietro l'angolo. Ecco, e comunque è dietro la parola semplificazione, invece in realtà ci sono sempre delle grandi complicazioni. Ingegner Gasparrini di Confabitare, grazie per essere stato con noi. Io ringrazio Gaia Romani per la collaborazione in redazione, Roberto Scaltritti in assistenza tecnica, Salva Danaio con i mercati. Torna domani, buona giornata.